faccia ridere, perché lo sai a volte fa male riuscire a perdonare. Scusa, fa troppo male, ma ciò che voglio fare. Non me ne andrò, rimarrò qua davanti a te finché non chiarirò. E non lascerò, rischiando di sentire 100 volte il tuo no. Io non lo so se farò parte ancora della tua vita o no, ma di sicuro non sarò lì a guardare. Siedo qua, dai, cerca di parlare, perché restarti solo a guardare è inutile da fare. E nulla se vuoi, lo posso sopportare, lo preferisco al non obiettare, anche se mi fa male. Lascerò rischiando di sentire 100 volte i tuoi no. Io non lo so se farò parte ancora della tua vita o no, ma di sicuro non starò lì a guardare i